Quantomeno quinci lontano al corso del non lungo cammin non poca parte. Or qui di cosa e per gli torti calli alle tenere membre non far violenza. Lasciar sulla statira preda leoni e agli orsi è troppa crudeltà. Vanne alla reggia, che finché avrò respiro sulle deserte piagge io le sarò fido custode allato. Oh, che vecchio onorato, io parto, ma te la raccomando. Ardive! Porché lei la io riprese a dare andiamo. Qui meco in queste selve menar tu dei giorni. Le reine tradisci! Tu reina vaneggi, o sovratelli impero! Al manto d'oro succederan spoglie servili. Il piede sparso di loto e scalzo sulle agghiacciate zolle inferno calcherà. Solo io comando, né Dario né... Tu più non sei reina, il gran Niceno a sovra dell'impero al manto d'oro succederan spogli servili. All'empio tu la pena prescrivi. Perfido traditore! Io ne sarò l'esecuto. Rammenta che bambina t'accolsi, che primo a tuoi fagiti io risposi coi baci, e che primo ti sciolsi dalle fasce tenaci. Se ben non merti, usar voglio pietà. Eloquenza de saggi sempre al fine persuade. Passa il cor col ferro e a quel tronco la affiggi. Oh, dispietata! Ma guarda che non muore. E come posso ferire il petto e assicurar la vita? Nella selva rovita viva dunque il ramico. Io son contenta. Resto che non si penta.